14강 어휘 abitare aprire capire cominciare parlare dormire dovere finire fumare mangiare morire dire partire pulire salire sentire uscire venire autobus classe compito fame finestra insegnante musica negozio nessuno pausa piede rumore scala stanza traffico ufficio volta lontano qualche strano abbastanza allora ancora bene comunque in ritardo qui sempre tranquillamente verso perché a piedi come mai nonostante prima di quando un po' prima 문형 Durante la pausa, l'insegnante esce dalla classe? Sì, esce dalla classe. Quante ore dorme al giorno? Dormo 8 ore. Capisce bene l'italiano? Sì, abbastanza. Perché viene a scuola? Vengo a scuola per studiare l'italiano. Con che cosa viene a scuola? Vengo a piedi. 대화. Signor Park, arriva sempre in ritardo. Come mai? Scusi, professoressa, ma la mia casa è abbastanza lontana da qui. Dove abita? Abito a Chamshil. Vieni a scuola con la macchina o a piedi? Vengo con la macchina. A che ora parte per venire qui? Parto verso le 8, ma c'è sempre tanto traffico a quest'ora. Capisco. Ma deve comunque partire un po' prima. Va bene. Allora, cominciamo la lezione di oggi. Cosa dicono gli italiani prima di mangiare? Buon appetito. Lei capisce quando parlo l'italiano? Sì, capisco abbastanza, ma non parlo ancora bene.